aspects of existence. Le tre caratteristiche dell'esistenza. Impermanence, the process of desiring, and this not me, not mine. Impermanenza, questo processo del desiderare, l'idea del me, mio, non me, non mio. Resolution. Facciamo, esprimiamo un buon proposito. I have so many timetables I've confused myself. Ho così tanti orari che mi sono confuso. So this morning we'll carry on with the same timetable. We'll be together as a group till the end of the Metta at 10:45. Quindi questa mattina ci rimarremo insieme come gruppo fino alla fine della sessione di Metta alle 10:45. And then the ones who are staying for the weekend, we shall meet upstairs. Yes. Those are leaving, sì. Per quelli che hanno fatto solo il weekend, quindi che partono dopo pranzo, allora ci troviamo qui nella saletta di meditazione sopra, accanto alla sala da pranzo. And the others will in the afternoon they follow a different timetable. Il gruppo che rimane fino a domenica prossima dal pomeriggio seguiranno un altro orario che metterò su oppure da parte lunch. Yeah. Metterò su dopo pranzo. Yeah. And this afternoon, could you tell them you're leaving and that be a taste talk? Sì, questa sera ci sarà un discorso registrato degli anni precedenti, perché non ci sarò. So just to revise this very quickly, the whole business around pleasure. Quindi solo per ripassare molto brevemente tutta questa questione intorno al piacere. Remember, this is our modern problem. Ricordate che questo è il nostro problema moderno. If Freud and the early psychologists understood the whole business of repression and suppression, the accent wasn't put on what happens when we become dependent or indulgent. I'll say that again, shall I? Yeah. I'll try. Right. The early psychologists, like Freud, were very much involved with the psychology of suppression and repression. Quindi i primi psicologi, come Freud e gli altri, erano molto interessati a questo processo della repressione o soppressione. And of course we still suffer from that. E ovviamente noi continuiamo a soffrire di questo. One thing that we experience in meditation is that suddenly we have all these feelings which we didn't sometimes know we had. una cosa che sperimentiamo nella meditazione è che ci accorgiamo di avere tutti questi sentimenti, queste sensazioni che non pensavamo di avere. Or if we did know we were holding something, we didn't realize it was this much. Perché ci eravamo resi conto che stavamo trattenendo qualcosa, però non realizzavamo che era così tanto. So when we open up to our hearts, we find that we've got many things locked away. Quando apriamo i nostri cuori, ci accorgiamo che abbiamo tante cose che sono state come chiuse a chiave dentro di noi. And one of the things that we do when we don't want to suffer something is we seek distraction. Una cosa che facciamo quando non vogliamo soffrire troppo è che cerchiamo una distrazione. So an obvious one is food. Una distrazione ovvia è il cibo. So when I'm a little bored or I don't feel so well, so I put something in my mouth, you see, like a baby. Sono annoiato oppure non mi sento troppo bene, allora mi ficco qualcosa in bocca, come un bambino. So we learned this even as little babies, that you know, dummies were very comforting. Sorry. So little babies, dummies. Sì, sappiamo che i bambini piccoli, per esempio, hanno i ciucci, no? Questi succhiotti, come si chiamano i ciucci, che sono molto di conforto, molto rassicuranti. So we now have a whole psychology to do with this dependency on pleasure for feeling good. Abbiamo tutta questa psicologia riguardo la dipendenza dal piacere per sentirci bene. And in our society now, pleasure is so easily available. E nella nostra società il piacere adesso è molto facilmente disponibile. We don't have to work at entertaining ourselves. Non è che dobbiamo fare un grosso sforzo per trattenerci, per divertirci. There's always the television, there's always something to do. C'è sempre la televisione o c'è sempre qualcosa da fare. And so therefore the whole psychology of dependency on pleasure really has an effect on our lives. Quindi tutta questa psicologia riguardo alla dipendenza dal piacere ha un grosso effetto sulla nostra vita. So, as we mentioned yesterday, there's the whole business of compulsive behavior, of addiction. Quindi, come abbiamo detto ieri, c'è tutta questa sfera, questo ambito del comportamento compulsivo, delle dipendenze. So, frustration and anger when we can't get what we want. E quindi la frustrazione o la rabbia quando non riusciamo a ottenere quello che vogliamo. Yeah, grief when we lose it. O il dolore quando lo perdiamo. And then there's this anxiety, you see. The anxiety was always there, but it's made worse when we feel ourselves so dependent on pleasurable things. E poi c'è l'ansia c'è sempre stata. Adesso diventa cioè peggiora l'ansia, si aggrava quando noi ci rendiamo conto che non possiamo ottenere ciò che vogliamo. What were once wants now become needs. Quello che una volta erano delle cose che si volevano, adesso sono diventate cose di cui sentiamo il bisogno. Now I need a television. Adesso io ho bisogno di una televisione. I need a car. Ho bisogno di una macchina. So it becomes something so that we depend upon. Diventa qualcosa da cui dipendiamo. And then finally there's this this boredom with life, you know, this underlying unsatisfactoriness. Poi c'è questa noia con la vita, questa insoddisfazione sottostante. So this is what the Buddha is pointing to as well with this word dukkha. E il Buddha indica proprio questo con la parola dukkha. Dukkha is not just the ordinary sufferings of life, it's also the suffering that arises from indulgence and dependency. Quindi la dukkha non è solo la semplice sofferenza che deriva dalla vita, ma è anche quella che è legata al dipendere da qualcosa e dall'indulgere da qualcosa. So we have to eat every day. So this is an opportunity to really find a new relationship with pleasure. E noi dobbiamo mangiare tutti i giorni, quindi questa è un'opportunità per rivedere la nostra relazione con il piacere. So remember, there's two things. You cannot destroy, you cannot get rid of old conditioning. Quindi ricorda che ci sono due cose: non possiamo distruggere o liberarci dai vecchi condizionamenti. All we can do is observe it and feel it and allow it to express itself. L'unica cosa che possiamo fare è osservarlo e sentirla e permettere a essa o esso di esprimersi. And that means to be aware of it as a feeling. E questo significa esserne consapevoli come sensazione. So, when you feel that, if during the day you suddenly have a desire for something to eat, see, instead of feeding the desire, stay with the feeling. Quindi se durante il giorno sentite il desiderio di mangiare, anziché alimentare questo desiderio, rimanete con la sensazione. And get used to the uncomfortable feeling of desire. E abituatevi a questa sensazione così di disagio che è legata al desiderio. And the more we are at ease with those uncomfortable feelings, the less they are able to control us. E quindi più noi ci sentiamo appunto a nostro agio con queste sensazioni, familiarizziamo con queste sensazioni e meno saremo schiavi di essi, cioè meno saremo controllati da essi. And that's the negative side. The positive side is to make sure that when we eat we have the right intention. Questo è il lato negativo. Quello positivo è assicurarci che quando mangiamo noi abbiamo la giusta intenzione. So here, when you have breakfast, when you have lunch, you see, just make sure that you're establishing a right relationship to food. Quindi quando siamo qui a colazione, a pranzo, assicuriamoci di avere la giusta relazione con il cibo. And so we can enjoy something without becoming psychologically dependent on it. Quindi noi possiamo godere di qualcosa senza diventarne psicologicamente dipendenti. And here we can begin to perceive how we can develop relationships in the same way. Qui possiamo cominciare a percepire come possiamo creare delle relazioni allo stesso modo. So in the same way, when we have a relationship with somebody, you see, we can normally tell when the attachment is coming in rather than love. Quindi quando entriamo in una relazione con un'altra persona possiamo renderci conto di quando inizia l'attaccamento piuttosto che l'amore. So we feel frustrated with them, we get angry with them, we get bored with them, and so on. Quindi siamo frustrati o arrabbiati con questa persona o annoiati e così via. So whenever there's a negative feeling arising, you see, then you know something is wrong. Because that's coming out of me, not coming out of the other person. Ogni volta che c'è qualcosa di negativo che sorge, allora questo ci fa capire che c'è qualcosa che non va. E questo ha a che vedere con me, non con l'altra persona. So it's the same with, with the enjoyment of art, the enjoyment of the countryside, and even spiritual pleasures. E questo vale sia per l'arte che per paesaggio, per esempio, o con i piaceri spirituali. So remember, the Buddha is enjoying the sensuality of life. He's not denying it. Ricorda che il Buddha sta apprezzando la sensualità che viene con la vita, non la sta negando. When he has collected some food, he says to Ananda, "Let us go and eat this in a beautiful shrine." Dopo che ha preso del cibo, lui dice ad Ananda: andiamo a consumare il nostro pasto in un bellissimo shrine, sarebbe un luogo di culto, tipo un tempio. These shrines were usually in beautiful parks. E questi templi di solito erano in dei bellissimi parchi. And then he mentions a few of these shrines that he thinks that might be worth going to. E poi lui addirittura menziona alcuni di questi tempi che valeva la pena di andare a visitare. Why is he not happy just to eat it on a dung heap? Perché non si accontenta di consumare il suo pasto, di mangiare su un mucchio di letame? So we have perhaps to understand that the Buddha is not trying to destroy the happinesses and joys of life. Quindi dobbiamo capire che il Buddha non stava cercando di distruggere le felicità o le gioie della vita. Mm. But to find a relationship with them whereby we no longer suffer from it. Ma di trovare una relazione con esse secondo la quale non stiamo più soffrendo. Mm. So the first day of a retreat is always difficult, huh? Primo giorno di un ritiro è sempre difficile. Because we are changing all our habits, we're sitting long times, etc. Cambiamo le nostre abitudini e ci sediamo per lunghi periodi e così via. And for those of you who are staying, you know, for the week, the second day is often worse. Per coloro che rimangono per tutta la settimana, il secondo giorno è spesso ancora peggiore. And the third day is not much better. Il terzo non è molto migliore. Only by the fourth, maybe the fifth day, do we find this rising of a greater peacefulness within us. Solo forse verso il quarto o quinto giorno c'è questo sorgere di un maggiore senso di pace dentro di noi. And the reason is that, you know, this tells us how much stuff we're carrying around all the time. E questo ci dice quanta roba ci stiamo portando dietro per tutto il tempo. Yeah. So this is something that we, these practices are something that we have to bring into our daily lives, you see. Quindi queste sono pratiche che noi dobbiamo inserire nella nostra vita quotidiana. Mm. And remember that, as far as I'm concerned anyway, the great trick is just to relax. E ricordatevi che, almeno per quanto mi riguarda, il trucco principale è quello di semplicemente rilassarsi. Just get into the habit of stopping every so often. Quindi vedete questa abitudine di fermarvi ogni tanto. And just wait for any accumulation of emotional stuff to die out a little. Quindi aspettate semplicemente che questo accumulo di roba emotiva in qualche modo si dissolva. Mm. So now we have just a little time before breakfast. Abbiamo un po' di tempo prima di colazione. So how are we going to spend it? Come la passeremo? Yeah. So every day, if you were to add up all the times when we are doing nothing, inverted commas. Se voi doveste sommare tutti i momenti in cui noi stiamo, tra virgolette, facendo nulla. It probably comes to maybe 2 or 3 hours a day. Può darsi che si raggiunga un tempo di 2 o 3 ore al giorno. And we just let the mind wander and just mess about. Noi lasciamo semplicemente che la mente divaghi e che non faccia nulla di particolare. Mm. Whereas these are very precious moments. Invece questi sono dei momenti molto preziosi. So there are at least 2 exercises that we can bring into those times. Quindi ci sono almeno 2 esercizi che noi possiamo fare in quel periodo, in quei momenti. This inhabiting the present moment, you know, to abide in the present moment. Questo abitare, questo dimorare nel momento presente. Mm-hmm. And just to be completely open. Essere completamente aperti. You're sitting on a bus or on the metro, or you're walking somewhere. See, just to be a receive, just to be at the receiving end of things. Quindi siete seduti sull'autobus oppure state camminando e vi trovate ad essere, come dire, dalla parte di colui che riceve. Mm. O colei che riceve. And the other one is just to develop the goodwill, the metta. Un altro esercizio è quello di semplicemente sviluppare benevolenza o metta. Mm. So these things take, you know, at the beginning they take a little effort to establish the habit. Quindi ci vuole un po' di sforzo inizialmente per creare questa abitudine. But then, because the habit is there, it has its own energy, and one begins to do it naturally. Poi l'abitudine comincia a creare una sua energia e allora diventa una cosa naturale. And you find your life is lifted, you see. E poi troverete che la vostra vita è come sollevata. Because all the time you're developing a beautiful state of mind. Perché state continuamente sviluppando questo stato bello della mente. This is better than developing, say, depression. E questo è meglio che non sviluppare la depressione, per dire. I am depressed. I am so depressed. May all beings be depressed. Sono depresso. Sono così depresso che tutti gli esseri possano essere depressi. So we'll start again at 9:30. Yes. Why you got that right? I'm sorry. Ci ritroviamo quindi qui alle 9:30. Buon appetito.